후강 어휘 Compleanno Data Giorno Lezione Settimana Morto Nato Successo Ultimo Quale Quando Quanto 문형 Quanto fa 1 più 2? 1 più 2 fa 3. Quanto fa 20 diviso 4? 20 diviso 4 fa 5. Quando è successo l'11 settembre? Nel 2001. Qual è il primo giorno della settimana? È lunedì. Deva. Lunedì è il primo o il secondo giorno della settimana? Il primo. Venerdì è il sesto? No, è il quinto. Qual è l'ultimo giorno? L'ultimo giorno della settimana è domenica. In quale giorno avete la lezione su Dante? Il martedì e il giovedì. Quando è nato Dante? Nel 1265. Quando è morto? Nel 1321. Che giorno è oggi? Oggi è il primo settembre.